24 mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno già mandando messaggi al 349-238-6666 o sms o whatsapp, e veniamo ora alle prime pagine dei giornali. Il Sole 24 Ore sceglie di titolare sulla questione delle banche, tutt'altro che risolta in generale, perché il sistema bancario italiano continua a avere problemi. In particolare adesso, sappiamo che la vicenda Monte dei Paschi per esempio non è del tutto risolta, ma adesso l'urgenza è quella delle due banche venete che andrebbero salvate. Dico andrebbero perché non si capisce ancora se saranno le altre banche a mettere sul piatto circa 1 miliardo per salvare queste due banche, oppure se ci vuole il bail-in, cioè il salvataggio dall'interno. Secondo, che poi sarebbe appunto un salvataggio fatto o da altre banche o dallo Stato. Il problema è che mentre se ci mettono i soldi le altre banche, in particolare naturalmente quelle più grandi, cioè Banca Intesa e Intesa San Paolo e Unicredit, costerebbe circa 1 miliardo. Se invece si corre il rischio di farle fallire, potrebbe costare all'intero sistema, ne ha parlato molto anche Sebastiano Barisoni ieri a Focus Economia, potrebbe costare 10 volte tanto. Da qui il titolo del Sole 24 Ore: Banche Venete, l'Unione Europea apre. Padoan dice però escluso il bail-in. Con il Sole 24 Ore di oggi, e poi sentiremo Mauro Meazza tra una ventina di minuti che ce lo racconta più nei dettagli, c'è la guida alla scelta dell'università, vengono più o meno valutati, elencati e presentati 4.800 corsi di laurea, perché tanto ricca è la scelta per chi appunto si iscriverà all'università. Ultimissimo titolo che vi segnalo dalla prima pagina del Sole 24 Ore è quello su Alitalia. I ricavi sono in crescita in maggio, cioè si è passati dai 240 milioni del maggio 2015 a 250 del 2015 lo scorso mese di maggio. Il Chief Financial Officer, ci racconta Giorgio Pogliotti, è in uscita. È un manager anglosassone, Duncan Naismith, e in generale c'è già stato un avvicendamento del 25% dei manager, quindi forse con appunto cercando di rintracciare le responsabilità dell'eterna crisi all'Italia, altra crisi irrisolta. Il Corriere della Sera, come molti altri giornali, titola su quello che è successo ieri a Roma, cioè il sindaco Virginia Raggi ha scritto al prefetto chiedendo di fermare gli arrivi di immigrati a Roma perché Roma non è in grado di accoglierli. Beppe Grillo a sua volta è intervenuto in questo caso su quello che lui considera un eccesso di mendicanti dal metrò, e su questo titola proprio il Corriere della Sera. Verso il ballottaggio, perché queste sono, secondo molte interpretazioni, anche delle mosse, tanto il Corriere della Sera parla addirittura di svolta del Movimento 5 Stelle, potrebbero essere anche appunto delle mosse in queste due settimane, meno di due settimane, 10 giorni che ci separano dal secondo turno per l'elezione dei sindaci e delle nuove giunte nei 1.004 comuni in cui si è già votato domenica scorsa. La fotonotizia però è dedicata a questo fatto di cronaca che unisce lo sport, gli sportivi di altissimo livello con la politica, perché i neo campioni dell'NBA, del campionato di pallacanestro americano, normalmente quando appunto vincono il campionato vengono invitati alla Casa Bianca e per una cerimonia con l'inquilino di quel momento della Casa Bianca, e i Warriors che hanno vinto questo campionato hanno deciso di boicottare questa cerimonia. I campioni del basket NBA rifiutano l'invito di Trump, ce lo racconta Massimo Gaggi. C'è una fotonotizia con Kevin Durant, che è uno dei giocatori dei Warriors, con la coppa in mano, fotografato subito dopo l'ultima gara contro i Cleveland Cavaliers, che appunto ha sancito la vittoria dei Warriors. Il Messaggero è il quotidiano di Roma per eccellenza. Migranti, tensione, Raggi Viminale. Il sindaco scrive al prefetto chiedendo una moratoria sui nuovi arrivi. Il ministero però, il Ministero degli Interni, ha replicato: a Roma nessun allarme. E anche il Messaggero fa un'interpretazione politica di questa mossa di Virginia Raggi dopo il flop elettorale, così lo chiama il Messaggero, offensiva di Grillo sulla sicurezza. E si viene chiesta anche la chiusura definitiva dei campi Rom. Anche il Messaggero ha la fotonotizia sul trionfo, quello che viene definito il trionfo dei Warriors, con sgarbo a Trump. I campioni boicotteranno il tradizionale incontro alla Casa Bianca. Naturalmente, credo sia anche inutile dirlo, è una delle tante, come potremmo dire, dimostrazioni che effettivamente Trump è in crisi di popolarità. Molte tensioni razziali ci sono state anche durante la campagna elettorale. Forse potrebbe esserci anche appunto una componente delle eterne tensioni che ci sono nella società americana. Chi ha vissuto in America o ha visitato l'America, magari non nelle grandissime città ma nelle città più piccole, ha sicuramente notato che, a differenza per esempio del Regno Unito, c'è molto meno ci sono molte meno interazioni tra le razze diverse e soprattutto tra i bianchi e gli afroamericani. Poiché, come sappiamo, la maggior parte dei giocatori di pallacanestro sono afroamericani, potrebbe esserci anche questo, cioè proprio colorare questa protesta di una sfumatura che lanci un segnale a Trump per esempio sulla questione dei poliziotti e dei rapporti tra la polizia e gli arresti dei giovani neri, su cui ci sono delle statistiche allarmanti, e gli incidenti che seguono questi arresti. Appunto, forse vorrebbe anche essere un segnale di questo tipo. Vedremo se ci saranno delle conseguenze, vedremo se Trump farà uno dei suoi famosi tweet sulla vicenda, perché sappiamo che al presidente americano piace molto usare Twitter, affida a Twitter molti commenti sull'attualità o sul suo operato. La Repubblica, migranti, la rincorsa al Movimento 5 Stelle alla Lega, così la Repubblica sceglie di dare, questa è subito un'opinione fin dal titolo, no? Perché interpreta la richiesta di Virginia Raggi alla Prefettura di Roma di limitare il numero di migranti che la città deve accogliere, e la Repubblica la definisce una rincorsa alla Lega. La fotonotizia della Repubblica però è dedicata all'incidente che c'è stato ieri in Puglia, uno scontro tra treni, 15 feriti, e in questo caso le prime indagini i primi sopralluoghi parrebbero dimostrare che si è trattato di errore umano. In ogni caso, naturalmente, ricordiamo quando invece ci fu l'altro scontro circa un anno fa, dove invece morirono molte persone. Si riaccendono giustamente, più che le polemiche, le discussioni sul fatto che, guarda caso, sì, si è trattato di errore umano, però era una linea dove c'era un binario unico, quindi naturalmente aumentano i rischi di incidenti perché ci vuole un coordinamento massimo tra stazioni, capotreni, per evitare appunto qualsiasi tipo di incidente. Tra l'altro si scopre che per esempio la società che gestiva quel tratto di ferrovia ha bruciato 400 milioni secondo i primi accertamenti, le consulenze d'oro, delle quali purtroppo spesso sentiamo parlare, e altri sprechi. Il Secolo XIX, che è il giornale di Genova, e sappiamo che Genova è una delle grandi città che andrà a capoluoghi di provincia, che andrà al ballottaggio, e dove, come dicevamo nella prima parte del programma, il candidato dei 5 Stelle è stato sconfitto, e ora, naturalmente, però, siccome aveva preso dei voti, titola Il Secolo XIX, è subito lite sui voti dei 5 Stelle. Ci lasciamo però un attimo per una pausa, ci ritroviamo subito dopo con le altre pagine dei giornali di oggi. Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e agli ascoltatori, all'ascoltatore in particolare. Intanto ringrazio tutti quelli che stanno mandando messaggi al 349-238-6666 o sms o whatsapp, e all'ascoltatore che dice che bisogna leggere anche i messaggi di chi non è d'accordo. Io in realtà cerco di segnalarli, non posso leggerli tutti, sennò non avremmo il tempo di scorrere le pagine dei giornali. In particolare mi ha colpito un ascoltatore che dice: cara Crivelli, le ricordo che i disordini fra polizia e neri sono stati più elevati, attenzione alle prossime sei parole, quando alla Casa Bianca c'era il kenyota idiota. cioè Obama, si documenti. Ecco, non credo che... Anche qui vogliamo essere proprio precisi. Allora, in quale periodo di riferimento? Obama è stato alla Casa Bianca per 8 anni, Donald Trump è insediato da 6 mesi. Vedremo alla fine se i disordini tra polizia e neri saranno più elevati o meno elevati. Non è questo il punto. Quello che cercavo di dire, e che credo tutti quelli che conoscono un po' l'America sanno, è che le tensioni razziali esistono. I disordini tra polizia e neri, o gli incidenti tra polizia e neri, soprattutto durante l'arresto di giovani neri, sono una realtà. La percentuale di giovani neri in carcere è molto più alta rispetto alla percentuale di neri sul totale della popolazione, e così via dicendo. Sono abbastanza documentata, caro ascoltatore, perché la ritengo una questione molto importante. Dopodiché, definire Obama il keniota idiota, veda lei. Veniamo alle prime pagine della Stampa. La Stampa oggi fa una cosa molto curiosa, secondo me, che mi ha fatto molto riflettere. Non ha di fatto titoli legati alla cronaca di ieri, sono più titoli generali. Io credo che potremmo riflettere, noi che facciamo i quotidiani, su come appunto possono essere i quotidiani del futuro, quanto approfondimento, quanto ripresa della cronaca. Molte delle cose che abbiamo letto sugli altri giornali le avete sentite più aggiornate al GR, quindi è una, o magari l'avete letto su internet, è una scelta interessante. La Stampa quindi titola su questa inchiesta fatta da Linda Laura Sabbadini, che poi trovate le pagine 2 e 3 della Stampa: dalle donne ai bambini, così i mercanti di uomini colpiscono anche in Italia. Scappano da guerre e persecuzioni, dall'ISIS e dalla fame. Secondo l'ONU, l'Italia ha comunque delle buone leggi sulle tutele, ma bisogna fare di più. Quello che si dice spesso, che noi siamo molto bravi nel gestire le emergenze, poi però non nelle politiche di breve, medio e lasciamo perdere addirittura di lungo periodo. Poi vi segnalo la fotonotizia, che non è né sui giocatori dell'NBA né sullo scontro dei treni, ma sulla questione dei prezzi della benzina. Anche qui, ogni volta che se guardiamo le oscillazioni del petrolio, sappiamo che non corrispondono quasi mai alle oscillazioni del prezzo della benzina, e quindi Fabio Poletti ha fatto questa sua inchiesta intitolata "La beffa della benzina in autostrada è più cara". I consumatori dicono ci sono problemi di distribuzione, ma il fatto è che in autostrada la benzina costa 12-13 centesimi al litro in più. C'è un fantastico buongiorno di Mattia Feltri su Riina, che vi leggo. Anche questa, naturalmente, la questione l'avete probabilmente seguita. Gli avvocati di Riina hanno chiesto che venga fatto che il boss mafioso, mai pentitosi, ha diritto a una morte con dignità. È partito immediatamente il dibattito, si è scoperto poi che Riina è ricoverato in un ospedale, in un reparto, in completa tranquillità, viene tutelato da qualsiasi disturbo esterno, viene curato in modo eccellente e quindi semplicemente non andrà ai domiciliari. Ieri Rosi Bindi, presidente della commissione antimafia, lo ha ribadito, ma sentite il buongiorno di Mattia Feltri sulla prima pagina della Stampa. Da 9 giorni l'Italia è impegnata in una discussione allucinogena. Totò Riina va scarcerato? Tutto parte lunedì della settimana scorsa, quando la Cassazione riceve la sentenza con cui il Tribunale di Sorveglianza stabilisce per l'ennesima volta che no, Riina deve restare nella clinica di Parma dove è detenuto. Clinica di Parma. La Cassazione dice ok, però c'è un piccolo problema. Le motivazioni sono insufficienti, vanno precisate meglio, perché dire che Riina è pericoloso non basta. La Costituzione, valida per tutti, buoni e cattivi e anche cattivissimi, garantisce pure ai reclusi il diritto a una morte dignitosa, sempre che stiano morendo, magari in altre strutture, raramente persino a casa. Che poi è un concetto giuridico prossimo alla banalità, almeno dai tempi in cui furono dichiarati illegali la razzia e lo squartamento. Chissà come sui giornali la notizia diventa che la Cassazione libererà Riina. E parte un dibattito surreale fra politici, magistrati in carriera e in pensione, avvocati, opinionisti, sociologi, passanti e semplici conoscenti, coralmente allibiti dalla demenza e delinquenza dello Stato. Un abbaglio globale e comico che spiega molto dei nostri tempi, e non se ne parlerebbe più se ora, sulle basi del nulla, non si fossero mobilitate le istituzioni nella persona del presidente dell'antimafia Rosi Bindi, auto incaricata di un blitz a verificare le condizioni di prigionia e salute del boss. «Sta benone, muoia pure lì», ha detto la Bindi. «Questa è l'unica verità. Rina morirà lì e non serviva Bindi. Basterà una sentenza scritta meglio». Il Fatto Quotidiano, anche il Fatto Quotidiano, come altri giornali, titola sul Movimento 5 Stelle, non tanto sulla presa di posizione di Virginia Raggi, che ha chiesto al prefetto di Roma di limitare il numero di migranti che Roma deve accogliere, ma sul fatto che la piattaforma Rousseau, che sapete quella è della brevettata della Casaleggio e Associati, che gestisce l'organizzazione in rete del movimento, cambia un po' le regole. Se volete sapere tutto, per me è una materia molto complicata, comunque c'è tutto sul Fatto Quotidiano pagina 3. Il titolo è Movimento 5 Stelle, così Grillo cambia le regole per scegliere meglio i candidati, quindi verranno controllati meglio i cosiddetti meet-up sul territorio, quegli incontri che vengono organizzati appunto lanciati su internet e poi vengono poi realizzati appunto sul territorio. Siccome nella prima parte, non so, per chi di voi l'ha sentita, ho detto che le parole di Renzi, non diamo Grillo per morto, questa idea di portare appunto la parola morto o il verbo morire quando si parla di un avversario politico, lo trovo comunque sgradevole. Vi segnalo questa orribile, secondo me, vignetta, pagina 2 del Fatto Quotidiano. C'è la morte, perché ha il suo teschio, il suo vestito nero e la sua falce, così come appunto si raffigura spesso la morte. E il titolo della vignetta di questo Natangelo è «L'anziano Silvio torna in campo e la morte dice a Silvio Berlusconi come sarebbe a dire non posso venire». E Berlusconi, disegnato naturalmente molto piccolo rispetto alla morte, mi dispiace ma devo impedire il centrodestra trazione leghista. Non so se c'è qualcuno di voi che ha riso o sorriso, io no. Il Giornale. La verità sui grillini, uno su due è disoccupato, quindi anche in questo caso titolo sul Movimento 5 Stelle ma ancora diverso, secondo questa inchiesta del Giornale, 55 parlamentari indigenti, tra virgolette, non vogliono perdere 100.000 euro e poi tutto insieme, si mette tutto insieme e nel sommario si legge basta Rom e migranti, basta Rom lo avrebbe detto Grillo, naturalmente è una semplificazione, basta migranti si riferisce appunto alla richiesta, come abbiamo visto, di Virginia Raggi. Adesso c'è Mauro, portami una ventata di fact checking, di cose più reali e forse anche più importanti dal Sole 24 Ore. Buongiorno Mauro. Buongiorno Giulia, ma guarda, oggi giornatona sotto molti punti di vista. Innanzitutto, mentre noi ci stavamo riposando questa notte, entrava in vigore il Jobs Act degli autonomi. Giusto. Lo statuto dei lavori autonomi che è in vigore da oggi. Allora, che succede? Cosa cambia? Vai a pagina 4 del Sole 24 Ore, una agile grafica ti riepiloga alcune delle maggiori novità, ad esempio maggiori garanzie per i contratti, per le parcelle, tutele aumentate per le maternità e così via. Poi sappi che sul nostro sito è sempre a disposizione un focus, cioè uno di quegli speciali da 16 pagine che facciamo il mercoledì, ma poi sono anche acquistabili sul sito per un dettaglio maggiore di queste novità, tanto per dirtene una. Poi naturalmente hai già segnalato il nostro titolo di apertura sulle banche venete, spiragli di ottimismo, lo aspettiamo tutti, intanto così pescando tra le pagine 2 e 3 vedrai che ancora Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, ha detto che la garanzia unica europea sui depositi non si fa. Cioè nel senso che lui non è d'accordo e siccome è uno dei punti, come sempre, di frizione, di attrito tra come la vediamo noi paesi latini e altri, ecco, restiamo ognuno della sua idea e andiamo avanti così. Oh, tra l'altro avidamente leggerai Finanza e Mercati come ti si conviene, come ti si confà, e allora lì troverai anche questa idea del tesoro statunitense che dice tutto sommato ci sono fin troppe garanzie per i risparmiatori, potremmo anche diminuirne un po', lasciare, come dire, gli investimenti, le speculazioni un pochino più libere. Siccome l'ultima volta che le hanno liberate stiamo ancora qui a pagare il conto, forse non è una buona notizia. Vedremo, è solo una raccomandazione però per il momento. Ma poi, cara Giulia, naturalmente oggi c'è la guida all'università, te ne avevo già parlato. Sì, l'ho sfogliata. Mi è venuta voglia di, no, non sto scherzando davvero, di, ci sono dei corsi che quando ho scelto io l'università, ma neanche, non c'era tutta questa scelta, sarebbe bello poter tornare a studiare. È molto cambiata, nel senso ci sono molti corsi in lingua adesso disponibili, ci sono possibilità di percorsi, di parte del percorso all'estero, di raddoppiare con una laurea estera, ma è tutto spiegato lì. Poi naturalmente non meno importante il fatto di poter usufruire degli sconti fiscali, questa è stagione di dichiarazioni, allora cosa spetta ai genitori, agli studenti per sostenere anche queste spese? Insomma, questo e molto altro, 80 pagine che oggi sono con il Sole 24 Ore in edicola. Ma oggi guarda, è una giornatona veramente, perché non so se Paolo è pronto in regia, ma è il giorno della voluntary disclosure. Lo voluntary disclosure, che cavolo vuol dire? Mannaggia la puttana, spiegatevi bene! Eccolo, era prontissimo. Il nostro amico Angelino ci ricorda appunto la voluntary disclosure, perché è arrivata, c'è, ce l'abbiamo. La circolare dell'Agenzia delle Entrate sulla voluntary disclosure bis. Allora tu dirai, ma chi se ne... No, invece guarda, c'era tutta una platea di esperti fiscali che aspettava queste indicazioni, finalmente sono arrivate, ci sono anche delle letture, diciamo così, senza entrare in dettaglio, più aperturiste, più positive per l'adesione. Poi il resto arriverà con la conversione definitiva della cosiddetta manovrina, un voto che si aspetta oramai per domani addirittura, quindi siamo proprio ad horas, come si dice. E infine, ma molte altre cose ti vorrei dire, mi fermo solo perché vedo che il tempo scorre e l'uomo non se ne avvede, come dice il poeta, ci sono le indicazioni della Guardia di Finanza e i suoi reparti per i controlli sugli scontrini. Sai che a volte può venire quella strana orticaria per cui uno non tocca il registratore di cassa, ha paura che scotti. Lo scontrino, forse, non lo so. Questo sconosciuto, sì. E a volte lo scontrino, ma insomma sconosciuto forse è troppo, però magari c'è un pochino di allergia, di intolleranza, ecco, lo scontrino. Allora, la Guardia di Finanza punta però molto su un controllo cortese, un controllo garbato, quindi non invasivo, evitare i minorenni, quindi non dovremmo vedere quelle cose estive della multa al bambino in costume che non ha lo scontrino per il gelato e così via. Tutto spiegato naturalmente, e dove se no nelle pagine che tu leggerai religiosamente, cioè quelle di norme e tributi. Certo. Tutto ciò premesso, cara Giulia e cari ascoltatori, traffico! "24 Mattino". Ancora buongiorno da Giulia Chiavelli, ben ritrovati per l'ultima parte della nostra rassegna stampa. Grazie ancora a tutti gli ascoltatori che mandano messaggi al 349-238-6666, non tutti positivi naturalmente. C'è per esempio un ascoltatore, mi fa veramente sorridere questo, non me l'aveva mai detto nessuno, riferendosi alla vignetta che definisce anche lui di pessimo gusto del Fatto Quotidiano, mi intima di smettere di fare la Berlusconi Girl. Ma veniamo alle cose serie, in particolare il tema della sanità, che forse l'avete capito, trovo sempre, mi colpisce sempre moltissimo quando ci sono notizie di mala sanità. Ieri dicevamo l'inchiesta di Enrico Marro, che abbiamo citato, sugli sprechi nella sanità, che ammonterebbero a 22,5 miliardi l'anno. Il ministro Lorenzin, proprio nella giornata in cui è anche intervenuta sulla questione delle formiche nel reparto di Napoli, ha scritto al Corriere della Sera dicendo di essere sconcertata dal quadro che dipinge Enrico Marro dicendo: vi spiego io i numeri della sanità. E in realtà, per esempio, contesta la famosa le cifre sull'out of pocket, che sarebbe quello che noi, al di là dei servizi garantiti dal Sistema Sanitario Nazionale, paghiamo di tasca nostra o per ticket o per prestazioni che sono escluse. Dice che sono cifre tutte da verificare. Mi sembra un po' come la questione dei ministri o dei parlamentari che non sanno quanto costa un litro di latte. Io credo che chiunque qui in Lombardia, dove tra l'altro abbiamo delle eccellenze, abbia notato che negli ultimi anni questo tipo di spese, quelle out of pocket, sono oggettivamente aumentate. Quindi il ministro Lorenzin, sicuramente in buona fede, però forse la cosa più utile sarebbe ogni tanto andare in un pronto soccorso o in una qualsiasi cassa di un ospedale e verificare quello che le persone normali verificano ogni giorno, cioè che in effetti è aumentata di molto la spesa che sosteniamo individualmente, tutte le spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. E poi naturalmente, caso per caso, bisogna verificare quanto siano migliorati o peggiorati i servizi. La Verità titola sul Movimento 5 Stelle con un titolo a suo modo, anche in questo caso, che già fa capire qual è l'analisi di questo giornale sulle elezioni di domenica. Ha vinto il partito Basta Immigrati. Ci si riferisce non solo alla sconfitta di Giusy Nicolini a Lampedusa, che era candidata per restare sindaco dell'isola, ma anche tutti gli altri sindaci sono stati puniti, tutti gli altri sindaci così definiti dell'accoglienza. In prima pagina La Verità, sempre a proposito di sanità, è l'unico giornale che dà molto spazio alla decisione. Avete sentito ieri sicuramente, prima a Effetto Giorno e poi anche nei GR, l'intervento del governatore del Veneto Luca Zaia, perché il Veneto ha fatto ricorso sulla decisione della Corte Costituzionale alla Corte Costituzionale sul decreto legge che prevede, lo sappiamo, i vaccini obbligatori. Vi segnalo la prima pagina dell'Avvenire, perché il 19 novembre festeggerà la prima giornata mondiale dei poveri. Ieri c'è stato un messaggio di Papa Francesco sul tema della povertà. Ha ribadito che dal suo punto di vista la crescita delle disuguaglianze e delle ingiustizie è il vero male della società, questo sempre maggior divario tra chi ha di che vivere e chi no. Siccome c'è un ascoltatore, a proposito di ascoltatori che mandano messaggi non proprio positivi, c'è un ascoltatore che mi dice che a volte do troppo spazio alle notizie un po' ansiogene. Allora vi segnalo le pagine che mi ero tenuta, spero meno ansiogene possibili, per far contento almeno un ascoltatore oggi. Dal Giornale, pagina 29, una bellissima intervista a Anne-Sophie Mutter, che è una violinista e anche una donna dal grande fascino anche fisico. Il titolo dell'intervista è: il mio violino unisce la lezione di Karajan, von Karajan, il grande direttore d'orchestra, con i suoni del presente. Dopo La Scala, è venuta appunto anche alla Scala, la celebre e sensuale violinista, scrive il giornale, in un'intervista fatta da una donna, Piera Anna Franini, dice: la bellezza, secondo me, emozionare, dice Anne-Sophie Mutter, conta di più. E poi questo excursus divertente che trovate invece sulla Repubblica, intitolato Chi li ha rivisti? Storia di autori bestseller da un solo titolo. Accade, no, a volte, che ci siano appunto questi exploit, dalla Lara Cardella di Volevo i pantaloni alla Melissa P dei Colpi di spazzola. Ecco che fine hanno fatto gli ex campioni delle classifiche dei libri più venduti. Sicuramente quando si ha un successo enorme, o per un libro bestseller o in altri campi, credo scatti sicuramente questa ansia per la seconda prova che bisogna fare. E a volte forse appunto si scompare anche, ci si gode il primo successo e non ci si misura con il tentativo di eguagliarlo con una seconda prova. E poi sempre per notizie un po' leggere, in Argentina il 30 giugno si sposerà Messi e Maurizio Crosetti, che è giornalista sportivo della Repubblica, racconta le nozze pop di Messi fra lusso e beneficenza con l'amore di una vita. Sposa infatti la sua fidanzata Antonella Roccuzzo, che è la sua fidanzata appunto storica, diremmo. Un'ultimissima segnalazione dal Messaggero: si dovrebbe decidere a Roma, in Viale Mazzini, la sede della RAI, dove c'è un consiglio di amministrazione, sul famigerato tetto ai compensi degli artisti, e il neo direttore generale Orfeo dovrebbe aver scongiurato l'esito delle star. RAI, porte aperte ai big, quindi pare che resteranno tutti, perché resterà intatto il loro compenso, che in moltissimi casi, come nel caso di Fazio, fotografato per illustrare l'articolo, Fabio Fazio, supera di molto i 240.000 euro. Un grazie a Paolo Corleoni in regia, a Lorenzo Nespoli in redazione. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli, a domani.